Ad alta voce. Valerio Binasco legge Una notte del 43 di Giorgio Bassani. Chi non ricorda Ferrara, la notte del 15 dicembre 1943? Chi potrà mai dimenticare le lentissime ore di quella notte? Fu per tutti una veglia angosciosa, interminabile, con gli occhi che bruciavano fissi a scrutare attraverso le fessure delle persiane, le vie immerse nel buio dell'oscuramento, col cuore che ogni minuto sobbalzava al crepitio delle mitragliatrici o al passaggio repentino, anche più fragoroso, dei camion carichi di uomini armati. A noi la morte non ci fa paura. Viva la morte e viva il cimitero, cantavano invisibili gli uomini dei camion. Era un canto cadenzato, ma non guerresco, pieno anche quello di disperazione. L'annuncio dell'assassinio del console bolognesi, l'ex segretario federale, lo stesso che dal settembre, dopo la parentesi del periodo badogliano, era stato chiamato a riorganizzare la federazione fascista in qualità di reggente, si era diffuso in città nel primo pomeriggio del giorno 15. Poco più tardi la radio aveva dato i particolari. La Topolino ritrovata lungo una strada di campagna nelle vicinanze di Copparo, lo sportello di sinistra spalancato, la vittima col capo chino sul volante, come se dormisse. Il classico colpo alla nuca, più rivelatore di una firma, e lo sdegno, l'ondata irrefrenabile di sdegno che la notizia non appena comunicata aveva suscitato a Verona, in seno all'Assemblea Costituente della Nuova Repubblica Sociale, raccolta in Castelvecchio. Verso sera, anzi, era stato possibile sentire una registrazione diretta della seduta veronese. Una voce sottile, penetrante, aveva all'improvviso soverchiato la voce bassa e accorata di colui che, dopo aver fatto partecipi gli ascoltatori della morte del console bolognesi, si era messo a tesserne l'elogio funebre, gridando, rabbiosa e lamentosa come quella di un bambino isterico: «Vendichiamo il camerata bolognesi!» Le radio erano state chiuse, le persone stavano guardandosi l'una con l'altra spaurite e già da fuori si annunciava il rotolio sordo di lontani autocarri in avvicinamento e il ta-ta-ta lacerante delle prime sventagliate di mitra. Nessuno andò a letto, nessuno pensò a dormire. Non ci fu ferrarese, insomma, che non temesse di vedere invasa la propria casa, ma fu soprattutto negli appartamenti della borghesia cittadina che si parlò e si discusse come non mai. Che cosa stava accadendo? Che cosa sarebbe accaduto? È vero, ragionavano seduti senza far niente attorno a quei medesimi tavoli da pranzo dove a una certa ora si era invano tentato di cenare come ogni sera e che poi erano rimasti così, mezzo sparecchiati, le tovaglie sparse di briciole e ingombre di piatti sporchi. La città risuonava di colpi d'arma da fuoco, di lugubri canti che parlavano di morte e di cimiteri. Ma non per questo era da pensare che i fascisti, i quali anche a Ferrara, limitandosi dal settembre in poi a rastrellare quel centinaio di ebrei su cui erano riusciti a mettere le mani e a rinchiudere in piangipane una decina scarsa di antifascisti, avevano in fondo dato prova di notevole mitezza, volessero ora, cambiato a un tratto registro e cominciando proprio da Ferrara, effettuare un radicale e generale giro di vite. Erano italiani anche i fascisti, che diamine, e anzi, a dire la verità, molto più italiani di tanti altri, buoni soltanto a riempirsi la bocca con la parola libertà e a lustrare le scarpe allo straniero invasore. No, non c'era da temere. Se i fascisti facevano un po' di baccano andando in giro con facce feroci e col teschio sul berretto, lo facevano più che altro per tenere a bada i tedeschi, i quali, lasciati a se stessi, non avrebbero esitato un momento solo a trattare l'Italia alla stregua di una Polonia o di una Ucraina qualsiasi. Poveri diavoli, i fascisti. Bisognava cercare di capire il dramma loro e quello personale di Mussolini, che anche lui, pover'uomo, se ancora non si era ritirato alle camminate come forse desiderava, doveva essere soprattutto per il paese che l'aveva fatto. Il re, l'8 settembre il re non era stato capace che di tagliare la corda insieme con Badoglio. Mussolini, al contrario, da buon romagnolo, i Savoia e Badoglio erano piemontesi e i piemontesi sono sempre stati gente gretta, poco sincera. Nell'ora della tempesta non aveva esitato un solo istante a risalire in plancia e a riprendere in pugno, faccia volta ai marosi, la barra del timone. E a essere schietti, come bisognava giudicarlo l'assassinio del console Bolognesi, un padre di famiglia tra l'altro, uno che in vita sua non aveva mai torto un capello a chi che sia. Nessun vero italiano se la sarebbe sentita di approvare un delitto come quello, che tendeva, era chiaro, a imitazione pedissequa della Jugoslavia e della Francia, a far divampare anche da noi gli orrori della guerra partigiana, la distruzione di tutti i valori della civiltà mediterranea e occidentale. Insomma, il comunismo, eccolo, il vero traguardo della guerra partigiana. Che se gli jugoslavi e i francesi, nonostante l'esperienza recente della Spagna, volevano il comunismo, padroni, si tenessero pure il loro Tito e il loro De Gaulle. Agli italiani, oggi come oggi, si imponeva un obbligo solo: restare compatti e salvare il salvabile. Come Dio volle, finalmente la luce tornò e con la luce canti e spari cessarono. Cessò insieme di colpo il fitto chiacchiericcio dietro porte e finestre, ma l'angoscia no, che non cadde. La luce diurna, restituendo anche ai più ciechi il senso preciso della realtà, la rendeva anzi più acuta. Cosa significava quel silenzio improvviso? Che cosa nascondeva o preparava? Poteva benissimo trattarsi di un tranello architettato per indurre la gente a uscire all'aperto e poi rastrellarla. Prima che qualche vaga notizia dell'eccidio trapelasse a poco da sé, nell'interno delle case trascorsero così 2 ore almeno. Le vittime della rappresaglia erano 50, 100, 200. Ad abbandonarsi ai pronostici più disperati sembrava sul serio, da principio, che non solamente il corso Roma fosse disseminato di cadaveri, ma l'intero centro cittadino. Non erano che 11, invece, riversi in 3 mucchi separati lungo la spalletta della fossa del castello, lungo il tratto di marciapiede esattamente opposto al caffè della Borsa. E per contarli e identificarli da parte dei primi che avevano osato avvicinarsi, di lontano non parevano nemmeno corpi umani, stracci bensì, poveri stracci o fagotti, buttati là, al sole, nella neve fradicia. Era stato necessario rivoltare sulla schiena coloro che giacevano bocconi e separare l'uno dall'altro quelli che, caduti abbracciandosi, facevano tuttora uno stretto viluppo di membra irrigidite. E c'era stato appena il tempo di contarli e ravvisarli, perché di lì a poco, sbucata improvvisa dall'angolo di Giovecca, una piccola macchina militare era venuta a fermarsi con teatrale stridio di freni davanti al gruppo di persone raccolte intorno ai cadaveri. «Via, via!» Era stato gridato prima ancora che saltassero a terra dai militi della Brigata Nera che occupavano l'automobile. Sempre incalzati dalle urla di costoro, ai presenti non era rimasto che ritirarsi lentamente verso le 2 estremità di Corso Roma. E di qui, continuando a tenere d'occhio i 4 militi che laggiù in fondo, sotto il sole ormai alto, montavano la guardia ai morti coi mitra imbracciati, far sapere per telefono all'intera città quello che avevano visto e rischiato. Orrore, pietà, paura folle. C'era questo nell'impressione che l'annuncio dei nomi dei fucilati suscitò in ogni casa. Erano soltanto 11, d'accordo, ma si trattava di persone a Ferrara troppo note, di persone delle quali, oltre ai nomi, si conoscevano troppo bene infinite particolarità del fisico e del morale, perché la loro fine non apparisse di primo acchito un evento spaventoso, di una efferratezza quasi incredibile. E sembrerà strano che l'esecrazione pressoché unanime dell'assassinio potesse accompagnarsi immediatamente al proposito altrettanto diffuso di far buon viso agli assassini, di fare atto di pubblica adesione e sottomissione alla loro violenza. Ma così accadde. Anche questo sarebbe inutile nasconderlo, se è vero come è vero che in nessun'altra città dell'Italia settentrionale il fascismo rinato a Verona avrebbe potuto contare da allora in poi su un numero talmente alto di iscritti, tanto da vedere fin dal mattino del giorno 17 lunghe silenziose file di cittadini sostare nel cortile della Casa del Fascio in viale Cavour, aspettando sotto la pioggia a rovesci che gli uffici della federazione venissero aperti. Curvi, dimessi, avviliti nei frusti pastrani di stoffa autarchica, si trattava dell'identica marea di gente silenziosa che il pomeriggio del giorno precedente aveva seguito passo passo lungo Corso Giovecca, via Palestro, via Borso, fino a Piazza della Certosa, il feretro del console bolognesi, e nei cui volti lividiti le poche persone rimaste dentro le case a spiare da dietro le persiane il corteo avevano riconosciuto, rabbrividendo, il proprio stesso volto. Che cos'altro c'era da fare se non cedere? Tedeschi e giapponesi, anche se per ora mostravano di ritirarsi, da ultimo sfoderando armi segrete di potenza inaudita, avrebbero capovolto la situazione e vinto in un lampo la guerra. No, non restava da prendere che una strada sola. Ma gli autori della strage, intanto, chi erano? Si era subito domandata la città tutta intera, a partire dal giorno successivo a quello del fatto. Nessun dubbio, gli autori primi, i responsabili materiali della strage, non potevano essere che gli uomini dei camion, 4 targati VR, Verona, e 2 PD, Padova, quegli stessi che per tutta la notte avevano riempito Ferrara dei loro canti e dei loro spari e che poi verso l'alba erano scomparsi. I vendicatori preannunciati dalla radio erano stati di sicuro loro, e infatti erano stati loro, gli squadristi veneti a presentarsi alle 2 del mattino al portone delle carceri di via Piangipane, erano stati loro, esclusivamente loro, a costringere, armi in pugno, quel povero uomo del direttore a cedere in consegna agli avvocati Polenghi e Tamagnini, entrambi socialisti e vecchi organizzatori sindacali, e gli avvocati Galimberti, Fano, Forlivesi del Partito d'Azione, tutti quanti detenuti fin dal settembre in attesa di istruttoria. Se non che a smentire la voce che già stava circolando, secondo cui nessun ferrarese aveva partecipato al massacro, nessun ferrarese si era macchiato di quel sangue, bastavano ad usura gli altri 6 morti: il consigliere nazionale Abbove, il dottor Malacarne, il ragionier Zoli, i 2 Cases, padre e figlio, e l'operaio Felloni. 5 almeno dei quali erano stati prelevati dalle rispettive case. Ebbene, salvo l'operaio Felloni, un oscuro dipendente dell'azienda elettrica che era stato aggregato al gruppo dei giustiziandi soltanto per essersi imbattuto poco prima dell'alba, all'ora in cui di solito andava a lavorare, in una delle pattuglie che bloccavano l'accesso al centro cittadino, nessuno che non fosse di Ferrara, si insisteva a ragionare da parte di molti, sarebbe riuscito a rintracciare a colpo sicuro il consigliere nazionale Abbove, non già nel suo palazzo di Corso Giovecca, ma nello studio Garçonnière, che ricavandolo da un chiostretto medievale comperato per pochi soldi, lui si era fatto costruire di recente, nella quieta e romita via Brasavola, e all'ombra discreta del quale, riempitolo dei più vari oggetti d'arte, era solito riparare certi pomeriggi la sua delicata canizia di maturo gaudente. Nessuno che non fosse del luogo, informatissimo oltre a ciò di quanto era accaduto in città negli ultimi tempi, avrebbe potuto sapere di alcuni convegni segreti che durante i 45 giorni del periodo badogliano si erano tenuti proprio nel trappolone del consigliere nazionale a Bove. Il dottor Malacarne e il ragionier Zoli c'erano sempre intervenuti, ma il vecchio Sciagura no. Lui aveva regolarmente declinato ogni invito. Convegni intesi a stabilire una linea di condotta comune per tutti quei fascisti di niente altro desiderosi, caduto il regime, che di far giungere al re l'espressione della loro incondizionata fedeltà e, insomma, come si dice, di voltar gabbana il più presto possibile. E i due Cases, in specie, padre e figlio, due dei pochi ebrei sfuggiti alla grande retata del settembre, commerciavano in cuoio, né mai in vita loro avevano pensato alla politica, i quali vivevano dal settembre tappati nel granaio della loro vecchia casa di vicolo Mozzo Torcicoda, essendo riforniti di cibo attraverso un buco dal pavimento dalla rispettiva moglie e madre, arianissima, cattolicissima. Chi altri, se non qualcuno che ne conoscesse a menadito il rifugio, sarebbe stato in grado di indirizzare proprio lassù, in cima a quel polveroso labirinto di scalette semicrollanti, i quattro scherani mandati a prelevarli? Chi altri se non Carlo Aretusi? Sì, appunto, Sciagura. E perché i sospetti convergessero subito sulla sua persona? Fin dal mattino del 16 aveva ripreso a comandare lui, in federazione. Il suo nome da quel momento si era tornato a pronunciarlo come prima del 22, abbassando istintivamente la voce. Sarebbe stato in fondo più che sufficiente ricordarsi come era apparso ai funerali del console bolognesi il pomeriggio dello stesso giorno. Non aveva mai accettato di partecipare alle riunioni clandestine che nell'agosto erano state tenute più volte a casa del consigliere nazionale a Bove, mandando anzi a dire dagli ex camerati che lui, desiderando non rinnegare a 50 anni ciò che aveva fatto a 20, non se la sentiva di intervenirci. Ed ecco che mentre camminava alla testa del corteo interminabile, immediatamente dietro l'affusto di cannone su cui posava la bara del console bolognesi e lanciava di continuo in direzione delle case di Corso Giovecca e di Via Palestro, occhiate cariche di odio e di disprezzo. Eccolo là, che snello, con addosso, nonostante il freddo, la sola camicia nera, col berretto della decima Mas calcato sulle 23 e con le tempie appena ingrigite. Sembrava tornato tale quale il giovane che era stato a 20 anni. Talpe maledette, marmotte, vigliacchi borghesi, vi farò vedere io, vi stanerò io, minacciavano i suoi occhi furenti, le sue labbra arricciate. In piazza della Certosa, prima che il feretro venisse introdotto in chiesa, aveva arringato la folla su questo tono. Accalcandosi grigia e inerte d'attorno, la folla ascoltava, e lui a infuriarsi sempre più, e soprattutto a causa, sembrava, di quell'inerzia. I corpi degli 11 traditori fucilati in Corso Roma all'alba di stamane, aveva urlato, concludendo, non saranno rimossi che quando l'ordinerò io. Vogliamo prima essere certi che l'esempio abbia prodotto i frutti desiderati. E che cosa mancava? Davvero? Perché nel parossismo della rabbia si arrogasse il merito di aver fatto giustizia a lui con le sue stesse mani. E di lì a poco, in Corso Roma, quando era sopraggiunto improvvisamente a far scattare sull'attenti i militi della Brigata Nera di guardia ai corpi dei fucilati, come interpretarlo il suo modo di comportarsi? Che da principio era sembrato così in contrasto con quello di mezz'ora avanti, in piazza della Certosa, mentre poi, a ripensarci, valeva più di 100 confessioni messe insieme. Era sceso dalla macchina rannuvolato, dando appena un'occhiata ai cadaveri stesi sul marciapiede, e subito uno dei militi era avanzato di un passo, informandolo, con l'aria di compiacersi che fosse arrivato in buon punto, di ciò che stava succedendo. Per tutta la giornata, riferiva il milite parlando in nome proprio dei compagni, loro tre erano riusciti a tenere a bada le persone che avrebbero preteso avvicinarsi. Più di una volta, anzi, allo scopo di disperderle, si trattava con ogni probabilità di familiari dei traditori. Donne che urlavano e piangevano, uomini che imprecavano. Non era mica stato facile farsi ubbidire. Erano stati costretti a sparare in aria qualche raffica, con l'effetto di respingere la gente laggiù, agli opposti angoli di Piazza Cattedrale e di Corso Giovecca, dove anche adesso, come il camerata Retusi poteva rendersi conto, c'era ancora qualcuno che si ostinava a rimanere. Ma cos'è che avrebbero dovuto fare, però? Aveva aggiunto il Milite, e a questo punto, levando un braccio, aveva indicato la finestra dietro i vetri della quale si intravedeva l'immobile sagoma di Pino Barilari, con quel signore là sopra, un bel tipo di incosciente, parola d'onore, che nessuna intimazione o minaccia, nessuna sventagliata di mitra aveva persuaso a spostarsi di un solo millimetro. Ma chi lo sa, forse era sordo. Comunque, sapendo in che modo raggiungerlo, a costo anche di sfondare la saracinesca lì davanti, uno di loro sarebbe certamente salito a intimargli da più vicino, con le buone e con le cattive, di togliersi di mezzo. Non appena il Milite aveva detto quel signore là sopra, di scatto, come se fosse stato morso da una vipera, Sciagura aveva alzato gli occhi verso la finestra che il giovanotto gli indicava. Era ormai scuro. Traboccando dalla fossa del castello, di minuto in minuto la nebbia infittiva, e lungo i circa 200 metri di Corso Roma era sempre quella lassù l'unica finestra illuminata. Sempre guardando, Sciagura si era lasciato sfuggire un'imprecazione soffocata e aveva avuto un gesto come di dispetto. Era tornato poi a volgersi e con voce mutata, una specie di mormorio impaurito, aveva raccomandato ai tre militi che di lì a una ventina di minuti, quando si fossero presentati gli uomini che lui avrebbe mandato a rimuovere i cadaveri, li lasciassero pure fare, non si opponessero in nessun modo.